te perché spacchi. Calzarete la gonna col body da sotto, impazzisco già quando ti togli il cappotto, ti cade dai fianchi sui tacchi. Ehi, è lo sguardo di quei giorni pazzi, alte e bassi, cattive ed è giusto, gattina, c'è gusto a guardarmi cadere e rubare gli sguardi. Ho bisogno di te perché mi fai godere già quando mi parli, già nelle sinapsi mi sblocchi, mi provochi, tocchi quei tasti. Non possiamo staccarci, noi lupi selvatici, amiamoci in camera, in macchina, all'estero, in treno, in albergo, sul mare, sul taxi. Siamo un tutt'uno, ti metto una mano sul culo, anche se mi mangia fanculo, le mani su. Lo sai che ti amo da quanto ce l'ho, è una gara di enduro e vinciamo sicuro. Sei l'unico oggetto delle mie serate, sorvolo le tue gambe lunghe come due autostrade. Se parlassi il muro ti direbbe come state. Sono questo, sono onesto, no che non è solo sesso, io ti voglio tutta adesso. Tutta senza compromesso, dove cazzo vai fai presto, fotto te si fotte il resto. Io te, un'altra notte in più, tanto lo so, quello che vuoi anche tu, quello che vuoi anche tu, quello che vuoi anche tu, quello che vuoi anche tu, quello che vuoi anche tu, yeah. Accendi la luce, click, che mi piace guardarti. Non ti chiamerò più, siamo cani bastardi. Neanche ti sbagli, resti in piedi sui tacchi. Sei la regina della mia partita a scacchi. Mani sul collo, anche se mi affondi le unghie non mollo. Faccio quello che vuoi e quello che voglio, senza perdere il controllo. Yeah, mi guarda come fossi matto, e fa bene, però se la chiamo viene. Baby non lo so che ci hanno messo dentro a quei cocktail, ma voglio bruciare all'inferno, piove e lavano sul letto. Questo è il modo perfetto, te sopra il petto, da 0 a 100, labbra una contro l'altra, come le schiene della cappa. Baby sì facciamo l'alba, sei meglio del mio conto in banca. Sono diventato questo, sono diventato onesto. Tanto lo so, quello che vuoi anche tu, quello che vuoi anche tu, quello che vuoi anche tu, quello che vuoi anche tu, quello che vuoi anche tu, yeah. Io e te, un'altra notte in più. Tanto lo so, quello che vuoi anche tu, quello che vuoi anche tu, quello che vuoi anche tu, quello che vuoi anche tu.